in primo piano. In questo martedì 6 luglio sono i nodi politici legati alla tenuta del governo, ai rapporti nella maggioranza e anche alla manovra a tenere banco sui giornali. L'apertura del Sole 24 Ore ha rivisto il pacchetto fiscale, si parla di manovra, Berlusconi Tremonti, saldi invariati, tagli alle regioni restano. Sulla manovra anche il Corriere, il governo blinda la manovra, anche la Stampa, manovra arriva la fiducia, stesso identico titolo per il Messaggero. La Repubblica invece le dimissioni di Brancher, Brancher si dimette, processatemi. Per il Giornale è Libero la vicenda Berlusconi Fini al centro, fuori Brancher, poi tocca a Fini, così il Giornale, la resa dei conti, mentre Libero la doppietta di Silvio. Risolto il caso Brancher, mette la fiducia sulla manovra, Gianfranco non mi serve per governare. Anche l'Unità la pone sull'aspetto politico, c'è una caricatura con una palla da bowling e alcuni birilli caduti hanno le facce di Scajola e Brancher, e due birilli caduti per l'appunto. Vedremo poi magari altre aperture. Come detto, la politica in primo piano. Ci sono alcuni aspetti importanti, la manovra tra poco vedremo, ma soprattutto il rapporto Fini-Berlusconi e la caduta e le dimissioni del ministro Brancher. Tra l'altro al rapporto Fini-Berlusconi sarà dedicato anche 9 in punto, Oscar Giannino alle 9 si occuperà di questo. Io partirei dall'articolo, dall'editoriale che Stefano Folli fa in prima pagina del Sole 24 Ore. Se l'obiettivo del Premier è salvare il governo, questo è il titolo. Qual è il primo obiettivo di Silvio Berlusconi? Salvare il governo e la coalizione oppure regolare i conti con Fini? Ottenere entrambe le cose nello stesso momento è difficile, forse impossibile, e si può immaginare che la priorità del Presidente del Consiglio, in nome del "ci penso io", sia la prima, salvaguardare e stabilizzare il governo. Non a caso la prima mossa di Berlusconi ha riguardato le dimissioni di Brancher, il ministro più anomalo degli ultimi decenni. È una questione, si potrebbe dire, di vasi comunicanti. Per salvare il governo occorre ridurre la tensione e la prima fonte di tensione nasce dal rapporto col Quirinale. Quindi, prosegue Folli, se c'è una logica, le dimissioni di Brancher sono solo il primo passo di una sequenza che non può non prevedere il rinvio della legge, vale a dire quella sulle intercettazioni. Nessuno smacco per il governo, bensì l'esigenza di correggere in modo radicale un provvedimento incongruo che ha prodotto solo lacerazioni e inquietudini. E questo è senza dubbio nell'interesse del Premier. E poi, continua Folli, c'è l'altro nodo, quello del rapporto con Fini, il più insidioso. Se l'obiettivo è salvare il governo, dice ancora Folli, la resa dei conti col Presidente della Camera andrebbe nella direzione opposta, sarebbe il più drammatico dei fattori destabilizzanti. Ma sembra di capire che il Premier stia cercando piuttosto un terreno di chiarimento, magari aspro, ma non fino al punto di apparire autolesionista. Il rischio infatti c'è. Dunque, una via prudente, secondo Folli, questo sarebbe iniziata con Brancher, dovrebbe continuare con la legge sulle intercettazioni e poi nel rapporto con Fini di non arrivare a una rottura improvvisa. Se questo è l'obiettivo, se l'obiettivo di Berlusconi, dice Folli, è quello del futuro del governo, di salvaguardare il governo. Oddio, a vedere ad altre ricostruzioni e retroscena politici apparsi su altri giornali, le versioni in realtà sono un po' contrastanti. Per esempio Claudio Tito su Repubblica la vede un po' diversamente, parla di ieri di un incontro, intanto Berlusconi ha convocato Tremonti per parlare anche di manovra, di un rapporto tesissimo tra i due, il Premier e la paura di un paese a pezzi. Basta Giulio, decido io, se vuoi andare vai. Questo è il titolo del retroscena politico di Repubblica, incontro definito tesissimo, il Presidente del Consiglio che si sente accerchiato. Intanto la prima vicenda, quella sistemata, è quella delle dimissioni di Brancher. L'ultimo colloquio col ministro, che ieri è andato in aula al processo Anton Veneta e ha detto, come abbiamo sentito nel GR, anticipo la volontà di volermi dimettere, poi formalizzerò le dimissioni ovviamente e mi farò processare con rito abbreviato. Tra l'altro l'ex ministro ieri si sarebbe sfogato così, lo dice appunto Repubblica: vi pare che debba prendere lezioni di democrazia da un fascista come Fini? pazzesco. Io ringrazio quelli di Forza Italia che mi sono stati vicini, ma non posso dire la stessa cosa di Umberto Bossi, che mi ha mollato alla prima difficoltà e mi sono sentito usato e tradito. Così avrebbe detto Brancher. Riguardo invece appunto ai rapporti Berlusconi-Tremonti, Berlusconi avrebbe detto a Tremonti: vuoi andartene? Troverò dei sostituti. Il capo del governo sono io, non ho alcuna intenzione di approvare una manovra che deprime tutti. E così ha chiesto a Tremonti, per esempio, di venire incontro alle richieste di Confindustria, che abbiamo sentito anche in una telefonata tra Berlusconi e la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, sarebbero stati risolti, ma tra poco vedremo di cosa si tratta. Oh, insomma, per Repubblica la tensione è dunque alle stelle, in realtà, tra Berlusconi e Tremonti, il nodo Brancher, il nodo Fini. A leggere i giornali che più attaccano Fini, che sono Il Giornale, e da oggi, visto che ieri non era in edicola, il lunedì come di consueto, ma da oggi ci torna anche Libero, e beh, sono questi i due giornali che puntano a dire: Berlusconi, bisogna arrivare alla rottura. Oggi Feltrin, in un editoriale consueto, peraltro nel quale dice: non voglio più tornare a dire che cosa penso di Fini, non voglio annoiare i lettori, però fuori, già il titolo, fuori Brancher, poi tocca a Fini, beh, Vittorio Feltri dice: ecco, Brancher ha deciso di smontare da cavallo, non si occuperà di federalismo fiscale ma dei casi suoi, molto più urgenti e concreti, casi giudiziari. E poi a questo punto la questione Fini, con Feltri che fa filtrare questa possibilità. È probabile, scrive a un certo punto, anzi certo, che il cavaliere non desideri nemmeno parlare col suo avversario e che mediti di compiere un gesto clamoroso. Un po' di pazienza e tutto si chiarirà. E poi Feltri, visto che è il momento di rivalutare il dialetto milanese, dopo il Gepensimi di Berlusconi, chiude così il suo editoriale: sperem, cioè speriamo. E che cosa si tratta? Lo vedremo presto, dice Feltri. Qualcuno dice: Berlusconi starebbe pensando a una sorta di predellino bis, tanto che la battuta di Italo Bocchino, uno dei finiani doc di questi giorni, cioè usciamo noi dal partito, forse uscirà Berlusconi dal partito. Cioè, tra le ipotesi e le scenari della politica è che Berlusconi stia meditando addirittura di fondare un nuovo partito, dire: va bene, usciamo noi, chi vuole stia con me, mi segua e facciamo un'altra cosa, una sorta di predellino bis. Sta di fatto che anche Maurizio Belpietro, nell'editoriale di Libero, in prima pagina, dice: Berlusconi deve andare alla conta. E tra l'altro pare che Berlusconi in qualche modo stia andando alla conta. Se è vero quello che raccontano sempre su questa vicenda sia Repubblica sia Il Fatto, Repubblica pagina 5, Il Fatto a pagina pure, no, a pagina 3, la campagna acquisti del cavaliere, questo è Repubblica, e telefonate, flirt, promesse, il suc del premier e la corte dei Fignani, questo è Il Fatto. Cosa starebbe succedendo secondo anche notizie che abbastanza confermate da alcuni dei protagonisti? Berlusconi starebbe chiamando a uno i Fignani, i cosiddetti Fignani, per capire, insomma, non è che vieni dalla mia parte, non è che ti senti più affine a noi piuttosto che a Fini, tanto che questo sarebbe il motivo per cui Fini avrebbe rotto con La Russa, questo secondo Carmelo Lo Papa su Repubblica, perché La Russa avrebbe preparato una lista di persone che Berlusconi sta contattando, tra queste Granata, Benedetto Della Vedova, che peraltro ha confermato, ha detto: sì, mi ha chiamato Berlusconi, abbiamo parlato, mi ha chiesto che cosa ci faccio io in una squadra di Fignani, dato che il mio posto sarebbe altrove, con il PDL vero, quello ortodosso. E poi chi? Adolfo Urso, Suad Sbai, onorevoli che, dice Repubblica, Berlusconi starebbe contattando alla stregua di una lista, prendendo spunto da una lista preparata dal ministro La Russa. Tanto che Fini da quel momento non vuole più parlare con La Russa. Anche Il Fatto parla di vero e proprio suc, la strategia della compravendita. C'è chi dice: sì, è vero, ci ha chiamati. C'è chi dice: mi ha chiamato, so che ha chiamato anche quell'altro che forse sta facendo il doppio gioco. E beh, insomma, certo, la situazione è abbastanza avvelenata. Flavia Perina, direttrice del Secolo d'Italia, dice: se ci prova con me, mi chiama, faccio subito l'apertura del giorno dopo del mio giornale. Sta di fatto che qualcosa molto si muove all'interno della politica, e alla finestra sta, e non è casuale, secondo me, oggi in intervista fatta a Francesco Rutelli sul Corriere della Sera, pagina 6. Andrea Garibaldi intervista Rutelli, che sapete è uscito tempo fa dal PD in una situazione molto marginale, pare, con la sua API, Alleanza per l'Italia, e dice: sì, è l'ora del terzo polo, Fini si sta muovendo bene, così dice Rutelli. È ora del terzo polo, ne sto parlando da quando sono uscito dal PD, il caso Fini fa emergere in modo clamoroso il fallimento del bipolarismo, stiamo lavorando anche con Casini a grandi linee allo stesso disegno. Insomma, ovviamente Rutelli, per riacquisire una certa rilevanza politica dal punto di vista dei numeri, sta alla finestra e aspetta di capire cosa succederà tra Fini e Berlusconi. E insomma lavora con Casini, poi dice, fa anche un appello: è il momento che personalità esterne alla politica decidano di impegnarsi senza aspettare chiamate che magari non arriveranno. A chi si riferisce? A Montezemolo? Boh, non si sa. Sta di fatto che molto si muove nella politica, anche se sembra tutto abbastanza immobile. In realtà, ripeto, secondo Feltri basterà attendere pochi giorni per capire quella che potrebbe essere anche una svolta definita clamorosa di Silvio Berlusconi. Stiamo a vedere. Certo, ci sono novità per quel che riguarda la manovra, come sapete. Ieri la protesta di Confindustria e Rete Imprese su alcuni articoli della manovra, che certo non piacevano, ne abbiamo dato conto ieri in rassegna stampa. Cosa è successo? Che Berlusconi appunto ha incontrato Tremonti e poi ha chiamato Emma Marcegaglia, ha detto, come ha riferito la stessa presidente di Confindustria, l'abbiamo sentita anche questa nel giornale radio, mi ha chiamato Berlusconi e dovremmo avere risolto tutte le nostre problematiche e dovrebbero essere state accolte tutte le nostre richieste. Il governo apre alle imprese, infatti il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, saranno riviste le regole fiscali penalizzanti per il sistema produttivo. Marco Mobili spiega bene quali che erano i punti della lamentela, i due articoli 31 e 38 della manovra, che potrebbero, nel caso dell'articolo 38, cioè diciamo l'accelerazione della riscossione, o meglio quello che prevedeva l'introduzione di un termine perentorio di validità delle sospensive giudiziali degli atti di recupero dei crediti verso l'amministrazione, una cosa anche un po' complicata, ma insomma ieri l'abbiamo spiegata bene, potrebbe addirittura essere portare a una retromarcia totale, cioè tornare a cancellare totalmente il comma 9 dell'articolo 38 della manovra e così accogliere tutta la richiesta in toto riguardo a questo articolo che hanno fatto le imprese. L'altro aspetto però importante della manovra, come spiega pagina 2 Dino Pesole, è che la manovra verrà probabilmente blindata con la fiducia. Dopo questa intesa Berlusconi-Tremonti sui saldi, che non cambiano, resta dunque la stretta per le regioni, vengono accolte invece appunto le rimostranze delle imprese e verrà posta la manovra. E dunque in settimana dovrebbe risolversi un altro dei problemi del Gepensimi berlusconiano. Maroni tace sugli eritrei e apre un nuovo fronte, l'aeroporto di Malpensa. Leggo questo titolo a pagina 20 dell'Unità, Umberto De Giovannangeli, riprendendo la storia che abbiamo raccontato di ieri e che da alcuni giorni l'Unità sta raccontando, vale a dire l'odissea di alcuni eritrei, circa 200, che sono rinchiusi in un carcere definito carcere lager nel sud della Libia, condizioni disumane, e l'Unità da giorni dice alcuni di questi eritrei dovevano venire in Italia, sono stati respinti. Perché nessuno si occupa di questa vicenda, di questo disastro, di questa emergenza umanitaria che chiama in causa anche il nostro governo? Devo dire che la breccia comincia ad aprirsi, perché ieri l'Unità ha detto tutti i giornali parlano di questa vicenda scandalosa. Oggi ho letto qualcosa sul Corriere della Sera e leggo anche un bel reportage che Stefano Liberti scrive sul Manifesto. Stefano Liberti, tra l'altro, è un giornalista che si occupa moltissimo di queste cose, ha scritto anche un libro ed è uno dei giornalisti più esperti in questo tema, vale a dire di emigrazione, soprattutto emigrazione dall'Africa, le rotte africane verso poi le rotte del nord, tra cui l'Italia. Stefano Liberti ha intervistato al telefono uno degli immigrati eritrei deportati nel sud della Libia, non facciamo il nome perché la questione è proprio questa: siamo stati deportati nel sud della Libia perché abbiamo rifiutato di dare le nostre generalità, perché se lo facciamo in Eritrea, che è uno dei paesi più brutali, uno dei regimi più brutali del mondo, si rivalgono sulle nostre famiglie e quindi sicuramente imprigionano e uccidono i nostri familiari. E dunque, sia sul Corriere della Sera che in questo reportage di Stefano Liberti, le persone intervistate vengono citate con nomi falsi perché non possono dare le loro generalità. Questo, che viene definito con la lettera T di Torino, l'iniziale del suo nome, dice: siamo nel lager di Al-Brak, a sud della Libia. 11 di noi sono stati respinti dall'Italia. Eravamo in mare, siamo stati avvicinati da una nave italiana, una grande barca, una nave militare. Ci hanno caricati su, ci hanno detto che eravamo salvi, ci avrebbero portati in Italia. Siamo saliti gridando dalla felicità. Poi dopo un po' ci siamo accorti che ci stavamo mettendo troppo tempo, eravamo 30 miglia a sud di Lampedusa. Non potevamo metterci così tanto tempo, finché abbiamo capito che la nave si stava dirigendo a sud verso Tripoli. Sono i cosiddetti respingimenti. Abbiamo iniziato a questo punto a far scatenare il putiferio sulla nave, ci siamo ribellati, non volevamo tornare indietro, l'equipaggio non sapeva che fare, a un tratto hanno tirato fuori delle pistole elettriche e hanno colpito alcuni di noi immobilizzandoli, le donne urlavano, i bambini piangevano ed ecco qui siamo ritornati in Libia e respinti dall'Italia, rischiamo la morte, questo è l'appello che ora anche troviamo sul manifesto, ma ripeto anche su il Corriere della Sera. Massimo Alberizzi intervista una di queste persone rinchiuse appunto ad Al-Brak, al sud nel sud della Libia, nel deserto della Libia, in condizioni davvero disumane, respinti alcuni di questi dall'Italia. Vi terremo conto ovviamente vi terremo aggiornati su questa notizia, se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. Io voglio andare a vedere qualche altra notizia che trovate sui giornali interessante. Intanto, che ha combinato il rettore della Sapienza? Rettore della Sapienza, l'origine era la protesta contro i tagli, e quindi ha fatto una protesta contro i tagli con una cosa simbolica. Farà gli esami dal 13 luglio per 3 giorni alle 21 fino alle 5, cioè gli esami di notte. E questo perché? Perché ha protestato contro i tagli. Questo lui dice: visto che siamo ridotti al lumicino, facciamo così, facciamo questa provocazione. Ma ieri il rettore della Sapienza è finito sui giornali soprattutto perché, che cosa ha detto? Ricercatori fannulloni. Ma come si dice? Di solito l'università è il regno dei baroni che non permettono ai ricercatori di emergere. E invece il rettore della Sapienza, Luigi Frati, ha detto: i ricercatori sono il 10% di loro, non ha prodotto nulla in 10 anni, sono persone che vanno cacciate dall'università, rubano lo stipendio, non fanno nulla, così siamo in parte corresponsabili delle decisioni dei governi, tagli compresi. Insomma, anatema di Luigi Frati su alcuni ricercatori: il 10% di loro non fanno nulla, vanno cacciati dall'università. Tanto che Laura Mari su Repubblica va a intervistare Giovanni Amelino Camelia, ricercatore fisico, che dice: ma come? Accuse assurde, ha sbagliato tutto. All'Università La Sapienza ci sono alcuni dei ricercatori più produttivi d'Italia. Non capisco questi continui attacchi a noi. Se c'è un problema nell'università, è la colpa di tanti baroni che per anni hanno governato questo sistema e continuano a governarlo, non ci permettono di lavorare. Accuse assurde alle persone sbagliate. Sta di fatto che Frati, il rettore della Sapienza, se l'è presa con loro. Trovate anche tutto su tutti i giornali questa storia che nasce da un incidente stradale che ha avuto un tir della zecca dello Stato all'altezza di Cerignola sulla A14. Si è rovesciato questo camion. Che cosa ha perso? Un carico di 1,5 milioni di monete, da 1 euro, da 2 euro. A quel punto, racconta Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, macchinisti che fermavano, gente che scendeva coi secchielli a rubarsi le monete da 1 euro, da 2 euro, tutto questo mentre c'erano i conducenti del tir della zecca feriti a bordo della strada, perché il camion si è quasi ribaltato e c'è una foto sul Corriere finito mezzo in un fossato. Tutto vero, tutto successo ieri alle 14.30 sulla A14 tra Foggia e Cerignola. Gli automobilisti che si stropicciano gli occhi, realizzano l'accaduto, inchiodano sul pedale del freno, scendono, si servono rapidamente, alla fine mancano 10.000 euro o in monete da 1 euro, 2 euro. 10.000 euro non sono pochi, no, da raccogliere. Ovviamente c'è anche una questione morale posta da Paolo Di Stefano, ma come? Insomma, ma per pochi centinaia di euro, non so, uno avrà raccolto 100 euro, 200 euro, giusto per scappare via, c'è stato un incidente. Fermi a raccogliere quelle monete cadute dal tir, questo è successo tra Cerignola e Foggia, incredibilmente è successo così. Come? Per finire, io voglio dare l'Oscar. Non si offendano, ma un po' l'Oscar degli imbecilli, dai, bisogna darglielo. Sempre dal Corriere della Sera la leggo, c'era un corso di motivation, il Motivation Day, il giorno per motivare, organizzato a Frascati per i dirigenti di un gruppo immobiliare. Cosa hanno fatto? Si sono radunati alla guida di Alessandro di Priamo, uno che fa lezioni di autostima e motivazione, hanno fatto tutti bei carboni ardenti. Allora, questo Alessandro Di Priamo ha detto: per motivarvi, cari agenti immobiliari, tutti sui carboni ardenti. Risultato: 9 ricoverati. Hanno fatto tutti e 9 i carboni ardenti, ustioni fortunatamente leggere, prognosi fino a 10 giorni, i manager camminano sulle braccia, 9 ricoverati. Hai detto l'Oscar degli imbecilli, ma così, eh. Insomma, non si offendano, poi devono curarsi le piaghe ai piedi, che è meglio.